nel dare avvio ai lavori di questo seminario sul liberalismo come pensiero e come azione politica in Germania e in Italia, dalla rivoluzione del 48 alla prima guerra mondiale, a nome della giunta esecutiva che sostituisce temporaneamente il segretario dell'istituto, il professor Paolo Prodi, che come tutti loro sanno è stato chiamato negli Stati Uniti alla biblioteca del congresso Washington, porgo il benvenuto e il cordiale saluto dell'istituto a tutti gli intervenuti, particolarmente ai signori relatori, alle autorità culturali che sono qui presenti, ai giovani borsisti che, come di consueto, sono metà di lingua italiana, metà di lingua tedesca, che hanno accettato questo nostro invito di venire a discutere questo interessante tema. Aggiungerò soltanto che il seminario sul liberalismo viene a concludere una panoramica sulle forze politiche del periodo in oggetto d'esame, che ha incominciato 3 anni fa con lo studio dei movimenti cattolici in Italia e nel mondo di lingua tedesca, l'anno scorso sul movimento socialista e l'operaio, quest'anno sul movimento liberale. Io ho finito, auguro a tutti che trovino qui un bellissimo soggiorno e quella cordialità che è anche uno degli scopi che l'Istituto si propone di avviare e di stringere tra i borsisti di lingua italiana e i borsisti di lingua tedesca. Cedo la parola ancora una piccolissima comunicazione, il programma che loro hanno dinanzi, i coordinatori hanno deliberato di modificarlo leggermente, facendo slittare qualche, ma verrà ridistribuito penso in mattinata o oggi al pomeriggio, ridistribuito nella stesura definitiva. Vorrei pregare adesso l'onorevole Bruno Kessler, presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, che è la matrice di questo nostro istituto storico italo-germanico, di prendere la parola per dare l'avvio ai lavori del seminario. Grazie, brevissimamente desidero anch'io, a nome del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Trentino di Cultura, rivolgere innanzitutto il benvenuto a tutti voi, in primo luogo ai relatori e a tutti coloro che partecipano, poi come borsisti, prima quelli di lingua germanica e poi quelli di lingua italiana e tutti gli altri che hanno voluto intervenire e che mi auguro numerosi, forse anche più numerosi, almeno ad assistere a questo importante ed interessante seminario. Desidero poi particolarmente ringraziare i coordinatori, il relatore e i due coordinatori, precisamente il professor Lill dell'Università di Colonia, il professor Matteucci di Bologna e il professor l'amico Adam Van Brusca, che sono i responsabili dell'organizzazione e della conduzione di questo seminario. Vi ringrazio sentitamente. Ringrazio naturalmente anche tutti gli altri relatori, quelli che già sono qui e quelli che verranno, e auguro che il lavoro che è stato preparato dalla giunta esecutiva, dai relatori e dall'Istituto Storico Italo-Germanico possa raggiungere anche questa volta l'obiettivo che si prefiggono queste attività culturali di un certo livello. Consentitemi poi a questa semplicissima parola di saluto e di augurio di aggiungere anche una valutazione, così che anche per noi così fa piacere. In sostanza, con queste 2 settimane di seminari, compie l'Istituto il ciclo del suo primo lustro, dei suoi primi 5 anni, perché se va via ancora un mese, farà esattamente 5 anni da quando l'Istituto Storico è stato qui, in questa stessa sala, è stato costituito formalmente. E così, vedendo anche nei comunicati che sono stati portati all'attenzione della pubblica opinione, da qualche giornale sì, da qualche giornale no, ma anche così dai programmi che sono stati messi in mano, si vede un pochino, si può scorgere quello che è stato il lavoro fondamentale, meno quello esterno, come seminari, eccetera, senza voler citare gli altri lavori, allora si può concludere subito che questa settimana non si conclude soltanto, si conclude un ciclo, uno dei cicli particolari e importanti e fondamentali appunto di un certo programma, che è quello appunto che ha visto approfondito qui la scorta delle relazioni di illustri relatori, cattolicesimo politico sociale in Italia e Germania dal 70 al 14, poi il movimento socialista ed operaio in Italia e in Germania dal 70 al 20, e appunto questa volta il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania, no, scusate, il liberalismo come pensiero e come azione politica in Germania e in Italia dalla rivoluzione del 48 alla prima guerra mondiale, si conclude appunto questo ciclo che era stato organicamente previsto. Dicevo, i primi due sono già stati pubblicati, gli atti del cattolicesimo politico sociale in Germania e il movimento socialista d'operaio, credo che sia questo. No, questo è il socialista e operaio, sì, l'ultimo. Il rosso, ecco. Il socialista. Quindi anche da questo punto di vista, con una certa tempestività, quindi ad un anno di distanza dal seminario, sono pronti anche gli altri. Credo che possiamo dire, anche non per dietro, ma per soddisfazione, il vedere le recensioni che già hanno, che ha avuto il primo volume, sia in Italia e sia, mi segnalava proprio l'altro giorno, una fatta anche in Svizzera, di lingua tedesca, dico abbastanza lusinghiere, comunque sono tali da assicurare anche noi amministratori che non abbiamo i metri autonomi, personali, precisi come voi naturalmente per giudicare, sono per noi testimonianze e garanzie così quanto quest'opera è stata apprezzata e quindi della sua validità intrinseca. D'altra parte dico che anche dico per noi italiani in modo particolare, veramente da profano rispetto a voi, ma tutto il dibattito politico così intenso, sviluppa soprattutto in Germania, ma qui in Italia probabilmente in questi ultimi 10 anni e ad anche ora adesso che riprende ulteriormente, eccetera, credo che veramente avere alla base, e se fosse possibile più in maniera più larga che non quello che riusciamo a fare qui naturalmente, avere alla base studi e riflessioni così profonde probabilmente potrebbe aiutare questo dibattito politico che c'è da augurarsi per noi italiani che un giorno o l'altro vada assestando da una parte o dall'altra con serietà, eccetera. Ecco, vedendo poi l'attività di questi ultimi anni, oltre a quel ciclo cui si è accennato, vediamo che il primo era stato Illuminismo italiano e Illuminismo germanico, poi Federico di Svevia, i problemi di politica e di cultura, poi l'inizio dell'umanismo in Italia e in Germania, problemi culturali e sociali, anche questo è un aspetto molto importante, poi il potere temporale dei vescovi in Italia e in Germania, che era il secondo fra i due dell'anno scorso, del 76, poi nel 77 ancora il Consiglio di Trento come crocevia della politica europea, e poi Austria e Italia, province italiane, il potere centrale, amministrazioni locali, che era anche un tema anche di molta attualità poi con le, soprattutto qui da noi in Italia. Ecco, si compie pertanto, dico, il primo lustro di attività di questo istituto, che se si tiene conto un po' delle difficoltà di avvio e così, se si tiene conto poi che non è naturalmente tutta qui l'attività che è stata sviluppata, e forse se si tiene conto, e voi avrete modo di vederlo, così ho piacere che lo vediate anche per criticare, per dire e per lasciare qualche parola anche voi che venite da via e che vedete qualche cosa che non va o che manca, la biblioteca. La biblioteca è stato un grosso impegno dell'Istituto Storico Italo-Germanico, per l'amministrazione anche un discreto impegno finanziario, ed è lì che vedo anche un pensiero. Ecco, detto questo, io ringrazio di nuovo tutti voi, ringrazio vivamente ancora voi tre che siete i conduttori di questo seminario, al quale, ripeto, auguro il successo per il quale l'abbiamo organizzato. Vi devo dire subito, così per scusarci preventivamente ma in maniera convincente, che purtroppo oggi all'università abbiamo coincide con questa mattina proprio una riunione importante di una commissione, per cui anche il professor Chiera, che è qui, oltre al sottoscritto, al dottor Andreoli, dobbiamo purtroppo privarci, ecco il rettore Ferrari, dobbiamo purtroppo privarci così nel privilegio di poter sentire le relazioni introduttive di questa mattina, che sarebbero anche per noi politici, così con la P minuscola, molto importanti. Grazie. Posso ridare il vivo ringraziamento all'onorevole Kessler, che dal primo momento, come voi tutti sapete, dal primo momento che è nato questo istituto, lui è stato, si può dire, la levatrice, o non so se... ci ha molto aiutato, è sempre stato presente. Io adesso che seguo questa attività, appunto dal primo momento, da quel 3 novembre 1973 che fu fondato qui l'istituto e si è presentato per la prima volta al pubblico, l'onorevole Kessler è stato, come presidente dell'Istituto di Cultura di Trento, è stato sempre il nostro protettore e amico, e li dobbiamo molto. Anche se vedete questa bellissima cornice per i nostri lavori, è anche dovuto alla sua iniziativa, insieme con l'iniziativa dell'amico Prodi, che adesso si trova già nella biblioteca del congresso di Washington. Di nuovo, tante grazie davanti a tutti. Grazie di essere venute anche oggi. Grazie a voi. E voi fatevi trattare bene, sapete? Il tempo è bello, fatevi anche trattare bene. Noi vogliamo della cazza. Che il settembre trentino. Noi vogliamo della cazza, quindi dipende da lei. Lei deve andare a cazza, poi parliamo. Purtroppo, ma il tempo è bello, e quindi... Qualcuno deve aver fatto lei. Ma per andare a cazza l'ho spiegato. Ma il settembre trentino in genere... Sì, non tradisce, e anche il periodo era stato scelto anche in questa, con questa speranza in genere. Allora scusateci, ma purtroppo noi dobbiamo aspettare. Grazie. Der auf die bisherigen Seminare hingewiesen, die seit dem Jahre 1974, also es ist jetzt gerade, schließt sich der erste Das erste Lustrum, die ersten 5 Jahre dieser Herbstseminare, die immer ein Mittelalterthema behandelten und ein Thema der neueren Geschichte, oder fast immer. Für unsere neuere Geschichte war das erste Seminar im Jahr 74 über die Aufklärung in Italien und im deutschen Sprachbereich, also in besonders stark auch der Reformismo Asburgico, also der österreichische Giuseppinismo und so weiter, mit Valsecchi und mir. Und dann fing diese Reihe an, die auch jetzt in gewisser Hinsicht abgeschlossen wird, nämlich die politischen Kräfte des 19. und 20. Jahrhunderts. In der entscheidenden Periode, in der sich das politische Spektrum, die politischen Lager, wie man bei uns in Österreich sagt, ausgebildet haben, die ja in Italien, in Deutschland, in Österreich, in den anderen europäischen Ländern auch heute noch das politische Leben beherrschen. Und zwar haben wir hier begonnen zunächst mit dem Katholizismo, also mit dem politischen und sozialen Katholizismus von 1870 bis zum Ersten Weltkrieg. Das war im Jahre 1975 das Seminar unter der Leitung von Professor Passerin d'André, den wir auch diesmal erfreulicherweise hier als Referenten haben, da er ja nicht nur ein Spezialist der katholischen Bewegung, der Geschichte der katholischen Bewegung, sondern vor allem und zuerst ja auch ein Erforscher des italienischen Risorgimento und des italienischen Liberalismus und besonders Cavour, ja, er ist. Also das war Professor Passerin und von deutscher Seite Professor Repken aus Bonn. Dieser Band ist schon erschienen, er liegt nicht hier Er hat also leicht zu erkennen eine dunkelviolette, fast schwarze Farbe. Das ist, ich hab nur den Sonderdruck hier, einen Sonderdruck, der hat, das ist also dieser Band, das ist dunkelblau. Nein, es ist dunkelblau, also nicht violett, nein, bitte Entschuldigung. Dann ist im Jahr darauf, im Jahre 1976, unter der Leitung von Leo Valiani und von mir ein Seminar abgehalten worden über das Movimento Socialista, Operaio e Socialista in Italia e in Germania dal 1870 al 1920. Leider eben sind diese Bände nur in italienischer Sprache, es ist noch kein deutscher Verleger dafür gefunden worden. Es sind ja alle beim Mulino in der bekannten und berühmten und für unsere Wissenschaft so wichtigen Società Editrice Il Mulino di Bologna erschienen. Und nun als letztes dieser Gruppe der Liberalismus, der ja zeitlich an den Anfang gehörte. Sie sehen das auch aus der etwas Verschiebung, aus der etwas zeitlichen Verschiebung. Wir müssen natürlich, wenn wir uns mit dem Liberalismus beschäftigen, mit 1848, mit der Europäischen Revolution, mit dem 48, beginnen und nicht erst mit 70, wie wir es bei diesen beiden anderen großen Bewegungen gemacht haben. Ich will hier nicht viel aufs Detail eingehen. Diese Seminare behandeln ja immer die verschiedensten Aspekte der politischen Bewegungen, die Ideologie, die Ideen, aber auch das Organisatorische, auch die Persönlichkeiten. Es ist natürlich sehr schwer, in einer Woche dieses Seminars hier alle diese Aspekte zu behandeln, aber die Vielfältigkeit wird schon dadurch angesprochen, dass ja verschiedene Referenten hier auch verschiedene Gesichtspunkte in die Diskussion bringen. Es ist beim Liberalismus besonders schwer, auch aus dem einen Grund, weil ja die liberalen Parteien bis zum Ersten Weltkrieg und darüber hinaus, man kann heute fast sagen, bis auf den heutigen Tag, eben noch den alten Charakter der Parteien vertreten, die Max Weber die Honoratioren-Parteien genannt hat, sich also von den großen Massenbewegungen, die einen Apparat dann auch aufgebaut haben, einen Parteiapparat, wie eben der katholischen Bewegung und besonders stark der sozialistischen Bewegung, die ja geradezu der Prototyp in dieser Hinsicht der Apparatpartei, der Massenpartei, in gewisser Hinsicht auch der Führerpartei, die wirklich vielfach in verschiedenen Ländern wirklich ausgesprochene Parteiführer gehabt hat, wozu es ja bei den Liberalen eigentlich nicht oder kaum gekommen ist. Also hier ist dieser Unterschied, dass die liberalen Parteien diesen älteren Typus der Honoratiorenpartei, also des Mannes, der zuerst gewählt wird und sich dann erst im Parlament in irgendeine Gruppierung anschließt, hier vertreten haben. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und daher ist es auch besonders schwer, dieses Phänomen zu erfassen. Aber ich glaube, es wird uns doch gelingen. Das ist das, was ich sagen wollte. Posso dire forse in due parole soltanto in italiano. L'avete già sentito, questo è l'ultimo ciclo, l'ultimo seminario di un ciclo che ha cominciato col cattolicesimo politico e sociale, è stato continuato col movimento operaio e socialista, e abbiamo dovuto, dato che il liberalismo è un po' il padre o la madre di tutti tutto lo spettro. Liberalismo e maschio, sì, va bene, è stato ad ogni modo il padre di questi figli che l'hanno poi contestato, perché questi movimenti erano i figli, sia il movimento socialista e operaio, sia il movimento cattolico, in un certo senso come movimento politico erano i figli del movimento liberale, però che questo movimento liberale non è mai arrivato a quel secondo stadio del partito di massa, si distingue profondamente dai movimenti cattolici e socialista, prima di tutto anche perché è rimasto sempre sul livello del vecchio tipo di, non so come tradurlo, di honoration patendi, partito di notabili, sì, appunto è la parola giusta, il partito di notabili, di gente che viene prima eletto e poi si raggruppa in Parlamento soltanto, che non ha mai un apparato, non ha mai un vero leader, un grande organizzatore come l'avevano per esempio gli altri partiti, che non ha, che è rimasto sempre in questo stadio di partito di appunto di notabili. Questo secondo me costituisce anche per il nostro lavoro qui una certa difficoltà, che il liberalismo è così multiforme, che, mentre gli altri due movimenti erano più concentrati, più facili ad afferrare, però spero che appunto anche per quello il nostro seminario con i suoi diversi contributi porterà un successo, e spero che ci saranno delle discussioni molto vivaci e che avremo alla fine anche un bel volume sul liberalismo, appunto come matrice o padre dei movimenti politici moderni. Con questo ho finito. Ja, zur praktischen Einführung in den heutigen Vormittag gehört, dass eine Programmänderung bereits diesen Vormittag betrifft. Wenn es uns gelingt, unsere Introduktion sehr kurz zu halten, dann werden wir danach schon ein erstes Referat von Herrn Altgeld hören, den das Institut freundlicherweise schon Professor befördert hatte. Ein Referat, welches in den Anfang des Themas einführt, indem es vom Italienbild der ersten Generation deutscher Liberaler handelt. Dunque, se riusciamo ad essere così brevi, a restare così brevi come siamo stati finora, avremo una prima modifica del programma già in questa mattina, perché dopo le introduzioni parlerà poi Altgeld sul Italienbild dei primi liberali tedeschi, cioè su certi appunti di una indagine che lui sta facendo sugli anni fra le rivoluzioni del 20 e la rivoluzione del 48. Il professor Vandruska ha già parlato del nesso logico che esiste tra gli argomenti dei due seminari che abbiamo fatto e quello di oggi. Allora non bisogna tornare su questo argomento. Io vorrei brevemente dire che a mio parere seminari come questo dovrebbero perseguire almeno tre obiettivi essenziali, obiettivi i quali dobbiamo tenere presenti in tutte le nostre discussioni. Il primo, e forse più importante, è di individuare le analogie, i punti in comune ed anche le differenze tra i due movimenti liberali e tra i due mondi politici e sociali in cui operavano, perché solo così eventualmente, se tutto va bene, possiamo giungere ad una visione comparativa che supera proprio quei limiti di storiografia nazionale che abbiamo ereditato tali esponenti di quel movimento liberale il quale stiamo studiando. Poi, secondo scopo, accertare ed analizzare dei legami che c'erano tra i liberalismi delle due nazioni ed individuare anche eventuali influenze, forze unilaterali, forze reciproche nel pensiero e nell'azione. Qui non basta semplicemente ricordare la stimolante impressione che fecero in Germania i fatti italiani del 59-60. Qui bisogna entrare nei dettagli, come lo farà senz'altro il professor Corsini quando si parla del Trentino come punto di incontri fra i liberalismi dei due aree nazionali, Corsini che è stato uno degli ispiratori di questo seminario di oggi, o come lo farà anche Altgeld in quella relazione di cui parlavo. E poi un terzo scopo, l'informazione reciproca sullo stato delle indagini e sullo stato delle discussioni nella storiografia italiana e nella storiografia tedesca. Perché mi pare che il lavoro quotidiano ci insegna che proprio questa informazione è indispensabile e che molte volte noi, quando siamo soli, siamo incapaci di procurarci questa informazione. Inoltre, possibilmente allargare la prospettiva a paesi con problemi e con costellazioni paragonabili oppure analoghe, e sotto questo aspetto sono molto contento che è venuto l'amico Dumoulin de Bruxelles, che ci parlerà un po' del liberalismo belga e delle relazioni fra il Belgio e fra i liberali del Belgio e le correnti liberali in Italia e in Germania. E poi soprattutto, qui bisogna discutere se questi seminari devono riuscire. Lo possono soltanto quando si fanno in una discussione continua, cioè la discussione fra i borsisti, fra i relatori, è uno dei scopi principali. Il nostro programma, come vedete, è ricchissimo, soprattutto dopo le aggiunte che abbiamo dovuto fare in questa mattina. E questa mi pare una ragione che chiede soprattutto da noi coordinatori di essere brevi. E perciò vorrei limitarmi adesso a pochissime osservazioni relative al primo punto, cioè a individuare delle comunanze, delle possibilità di paragonare il liberalismo italiano al liberalismo tedesco. Mi pare che c'è una prima grande e essenziale comunanza. I due movimenti, sorti tutti e due, più o meno dalla nuova borghesia, formatasi nell'epoca francese, i due movimenti costituivano e si concepivano come precursore e anche come prima realizzazione sociale dell'unità nazionale contro le forze conservatrici degli stati particolari. L'idea nazionale non era ancora in mano della destra, dove poi è arrivata negli anni 60-70, però l'idea nazionale era uno strumento per l'integrazione borghese e per la partecipazione politica della nuova classe, la quale poi più tardi non ha saputo o voluto estendere i diritti acquisiti alle altre classi e alle altre ideologie. E poi proprio da questa limitazione sono nate le opposizioni di cui abbiamo parlato negli altri seminari. Le parole borghese, liberale e nazionale dicevano praticamente lo stesso, almeno fino agli anni 60. Descrivevano una sola realtà politica e sociale, come ultimamente l'ha sottolineato Heinrich August Winkler in Geschichte und Gesellschaft. E ciò vale non solo per l'Italia, ma vale anche per la Germania, almeno fino a quel periodo tra 60 e 70, fino all'inizio della soluzione bismarckiana della questione tedesca negli anni 66-71. E da qui, da questa grande comunanza, si arriva subito alla prima grande differenza In Italia fu realizzato lo Stato liberale borghese, più o meno parlamentare, col sistema parlamentare, mentre i liberali tedeschi dovevano rendersi conto che unità e libertà costituzionali non erano da realizzare allo stesso tempo. Da ciò nasceva poi quel famoso compromesso storico fra la concezione prussiana, bismarckiana da una parte e quella liberale borghese dall'altra parte, con le conseguenze che tutti noi conosciamo e delle quali si discuterà anche in questo seminario. Compromesso che ha causato, fra l'altro, la scissione del liberalismo tedesco. Scissione in due partiti, cioè che dal movimento liberale tedesco sono nati due partiti, uno liberale di destra, nazionale liberale, e uno liberale di sinistra. E qui bisogna domandarsi se qui c'è una analogia o una differenza di fronte all'Italia, perché io non so se il liberalismo italiano ha mai costituito un vero partito. Problema da discutere e da paragonare tra Italia e Germania. Due altri punti dei quali si tratterà in queste relazioni e che formano un trait d'union fra il liberalismo italiano e quello tedesco: la secolarizzazione della società, lo Stato laico e anche come tale l'Italia come modello al liberalismo tedesco, con tutte le conseguenze per il Kulturkampf complicato dalla questione romana. E l'altro problema che sta sempre in mezzo alle nostre discussioni, l'Austria. L'Austria come il grande nemico dell'unità italiana e del liberalismo italiano, e l'Austria che fino al 48 faceva parte delle aspirazioni nazionali del liberalismo tedesco, ma che poi viene messo da parte e si forma proprio la Klein Deutsche Partei, così che poi i liberali tedeschi e i liberali italiani credono di avere due nemici comuni, il Vaticano e l'Austria. E da lì tutto un nesto di questioni che fra il 48 e il 70 poi avevano come conseguenze tanti contrasti, scissioni anche profonde di cui si parlerà. Ma con questo, per questo momento mi pare io posso finire, perché se no non tengo la parola. Se torniamo brevemente alle soluzioni nazionali degli anni 60-70, possiamo forse dire già qui che qui studiamo proprio quel processo di ritardo storico con il quale poi sia in Italia sia in Germania è stata raggiunta l'unità nazionale. Cioè, più tardi, molto più tardi che nelle grandi nazioni dell'Europa occidentale, e anche in modo non completo, perché se l'Italia ha realizzato lo Stato nazionale unitario liberale, bisogna aggiungere subito che questo Stato è stato uno Stato di classe borghese che non ha saputo integrare i movimenti ideologici e sociali diversi dalla classe regnante. Da lì poi i problemi che tutti conosciamo. Mentre in Germania, proprio con quel compromesso bismarckiano, fu creato uno Stato nazionale, anche se non unitario, ma federale, anche questa è una differenza importantissima, però uno Stato nazionale che, pur non realizzando tutte le richieste liberali, che restava invece molto di più legato alle tradizioni dell'assolutismo prussiano, che però in pari tempo, proprio perché non era di stampa liberale, ha potuto integrare, almeno in certo senso, con una politica sociale molto conservatrice, anche altre classi della popolazione. Così che qui in Italia abbiamo lo Stato liberale, senza la partecipazione di tutti quelli che non sono liberali e che non appartengono alla classe borghese. In Germania abbiamo uno Stato che non è arrivato al sistema liberale parlamentare, che però si è aperto, almeno sotto certi aspetti, ad altre classi, anche con le leggi bismarckiane in materia sociale, delle quali abbiamo discusso nell'altro seminario. Però, né in Italia, né in Germania, qui il liberalismo di classe e là il compromesso fra forze vecchie e forze liberali, né l'Italia né la Germania sono arrivati a quel completo sistema parlamentare e a quella consonanza, a quella parallelità tra sviluppo economico-sociale e sviluppo politico, nel senso della modernizzazione, così che poi alla fine del periodo che trattiamo tutte le due nazioni erano o sull'uno o sull'altro aspetto nazioni ritardate in confronto all'Europa occidentale. Grazie del tutto. Ich muss mich bei den deutschen Kollegen entschuldigen, aber an sich ist es sicher gut, dass jeder von uns immer in der eigenen Sprache spricht. Nur vielleicht heute, weil heute noch etliche Gäste aus Trient hier bei uns sind, die nicht Deutsch können, ist vielleicht legitim, dass heute Morgen ein bisschen mehr Italienisch als Deutsch gesprochen wird. Aber ich glaube, dass eben das Italienische und das Deutsche von den Deutschen verstanden wird, oder von den Italienern, wenn es notwendig ist. Und wir dann wahrscheinlich gleich, also io vi farò alcune sparse osservazioni sperando di mantenermi nei tempi stabiliti come si è mantenuto il professor Lill, ma perché voi capiate queste mie scarse osservazioni dovete tenere presente che io non sono uno storico e tantomeno sono uno specialista della storia italiana e tedesca dell'Ottocento, perché io mi muovo più nel campo della filosofia politica. E nel campo della filosofia politica io non saprei dare una risposta al primo termine del nostro seminario, il liberalismo, perché io non so che cosa sia il liberalismo. E giustamente Van Drusche inizialmente diceva: quando noi parliamo del cattolicesimo sociale sappiamo grosso modo cos'è il cattolicesimo sociale. Anche del socialismo conosciamo una sua unità ricca e articolata, come ci ha insegnato recentemente Bettino Craxi, ma quando si arriva a parlare del liberalismo, veramente nella letteratura italiana e straniera c'è una tale discordia, per cui né gli storici delle dottrine politiche né i politologi sono giunti oggi a stipulare una definizione per poter discutere. Tanto è vero che uno dei maggiori liberali tedeschi che oggi vive in America, che è economista, che è storico, che è politologo, Hayek, ha recentemente proposto di abolire la parola liberale o liberalismo perché è una parola che si riempie di troppi contenuti e pertanto genera più fraintendimenti che intendimenti. E noi abbiamo bisogno, però, io penso, se vogliamo discutere... vive adesso in Germania, ed è austriaco. È austriaco. Austriaco e vive in Germania, ma ha vissuto lungamente in America. È una cosa complicata. È la scuola di Chicago. Hayek, sì. Premio Nobel. Se noi dobbiamo andare a studiare il liberalismo italiano, europeo, italiano e tedesco nell'Ottocento, a mio avviso dovremmo avere quella prima bussola per scremare chi è liberale o chi non è liberale. E adesso iniziamo da alcune osservazioni. Però citerò alcuni dei più importanti libri che sono usciti, diciamo, recentemente, meno recentemente. Nil propone una grande distinzione fra un liberalismo ecumenico e un liberalismo settario. Il liberalismo ecumenico è un certo atteggiamento di fronte alla vita sociale, aperto, tollerante, amante delle discussioni. Una definizione così generale, così vaga, per cui non dico che metà dell'umanità, ma una gran parte delle persone rientrano in questo atteggiamento, ma questo, col liberalismo questo non c'entra. Dall'altra parte invece esiste un liberalismo settario, un liberalismo dei gruppi, un liberalismo dei partiti, e seguendo questa linea, David Smith, che ha compilato la voce liberalismo per la nuova enciclopedia americana di scienze sociali, dice che in Europa esiste soltanto il liberalismo settario, il liberalismo dei gruppi, perché abbiamo una cultura in Europa troppo frammentata, troppo divisa, troppo pluralistica, di cui il liberalismo è soltanto un gruppo e non è invece, è una parte rispetto al tutto, non è un tutto come invece nell'area anglo-americana. Per me la definizione, questa, ci muoviamo con una definizione da un lato troppo larga e da un lato troppo stretta, le quali due definizioni non ci fanno assolutamente cogliere quella che è la sostanza poi del liberalismo, che a mio avviso i liberali sono una cosa, possono incarnare storicamente i partiti liberali il liberalismo, ma non sono il liberalismo. Tant'è vero che quando andiamo a studiare la storia dei partiti liberali, o meglio, si dovrebbe dire, dei movimenti liberali, ne andiamo a studiare i programmi e vediamo che molto spesso sono programmi estremamente diversi l'uno con l'altro. E puntando tutto sull'aggettivo liberale, noi finiamo per perdere il sostantivo. È ancora viva nella letteratura l'impostazione del libro del De Ruggero, che per noi è un libro molto vecchio, è un libro uscito, se non sbaglio, adesso vi dico la data esatta, uscì in Italia nel 25, venne tradotto immediatamente nel 1927 in inglese, e l'influenza di questo libro è un'influenza ancora perdurante. Anche il tedesco fu tradotto. Anche il tedesco fu tradotto. Primo, quando nasce il liberalismo? Il liberalismo nasce con l'umanesimo, con il Rinascimento, con la Riforma e con l'Illuminismo. Strano, nasce questa nuova concezione della vita, e questa nuova concezione della vita quando trova il nome con cui connotarsi? Solo nei primi anni dell'Ottocento, quando in Spagna il movimento che si opponeva al movimento servil prese il nome di liberale. Quindi il liberalismo come parola, liberale come parola, nasce dopo questo lungo processo storico, Rinascimento, Riforma, Illuminismo. E da questo deriva un altro, a mio avviso, che può essere un altro grosso equivoco. Allora il liberalismo è una concezione della vita che si collega strettamente con la concezione della vita immanentistica, col trionfo del soggettivismo moderno, per cui il pensiero liberale è il pensiero della filosofia moderna, come ce l'hanno insegnato nei manuali scolastici, ai suoi momenti culminanti, in Cartesio e con Hegel. Tanto è vero che Croce, quando venne invitato da un'istituzione americana a dare una definizione del liberalismo, in un saggio fece coincidere il liberalismo con la filosofia immanentistica. Ma per altri, e quindi il liberalismo viene depotenziato a un'ideologia tra le ideologie, ma io penso che molti liberali non si possono ritrovare in questa concezione. Altri invece, e su questo noi avremo una relazione, non tanto una concezione generale della vita, ma una concezione della vita politica. E allora, attraverso la relazione di Passarelle d'Andrève, noi vogliamo verificare come la concezione della politica, che è stata impersonata nel Conte di Cavour, come questa concezione della vita politica sia stata recepita dai suoi eredi. E per noi italiani Cavour resta un punto di riferimento. Tant'è vero che uno storico, metà tedesco e adesso metà francese, perché vive a Parigi, René Mayer, ha scritto in un saggio su Tocqueville che Cavour è Tocqueville in azione. Ma per altri, il liberalismo è qualcosa di diverso, è una certa concezione, diciamo, dello Stato limitato, dello Stato costituzionale, dello Stato, cioè, che è servizio dell'individuo. Ma se il liberalismo si riduce solo e soltanto a questo, voi vedete che il liberalismo, fra liberalismo e costituzionalismo, non c'è molta differenza. Ma se il liberalismo coincide col costituzionalismo, va bene signori, io devo andare più indietro dell'umanesimo, devo andare nel Medioevo, perché la nascita del costituzionalismo moderno, come ci ha mostrato un grande storico americano, McKinley, nasce proprio con la concezione del diritto del Medioevo. Nella letteratura straniera non si distingue, perché non si distingue fra liberalismo e liberismo, come siamo abituati noi dopo la polemica fra Croce e Einaudi. E sul liberismo del liberalismo italiano avremo la relazione di Are. Mi dimenticavo prima, la relazione di Ruffilli riguarderà proprio sulla organizzazione dello Stato, per mostrarvi come nel periodo cruciale della fondazione dello Stato, dell'organizzazione amministrativa dello Stato unitario, il gruppo liberale avesse due filosofie politiche ben diverse, una impersonata da Minghetti, il quale aveva una cultura, se vogliamo, più francese, vogliamo un simbolo ancora qui, Tocqueville, e dall'altra parte la concezione della classe dirigente meridionale impersonata nei Fratelli Spaventa, che si riferivano direttamente allo Hegel. Sinteticamente, per Minghetti, primato della società civile, per i Fratelli Spaventa, primato dello Stato, perché, come diceva Spaventa, lo Stato è la verità della società civile. Come vedete, questo liberalismo non sappiamo bene da che parte agguantarlo. Non sappiamo bene da che parte agguantarlo perché anche se andiamo a riprendiamo a De Ruggiero, che ha dato l'impostazione di tutte le storie del liberalismo che sono venute dopo. La storia, quella del libro del De Ruggiero, non è una storia del liberalismo. Sono le vite parallele di quattro liberalismi, francese, l'inglese, il tedesco e l'italiano. Vite parallele, è molto importante a mio avviso in questo nostro seminario, come ho sentito già dire da Brandrusca e ripetere ancora più insistentemente dal professor Lì, che a noi non ci interessa fare una storia dei liberalismi, delle storie parallele, ma ci interessa soprattutto la circolazione delle idee. La circolazione delle idee perché questa ricostruzione del De Ruggiero, che continua, come vedremo tra due minuti, è una costruzione statica che non ci permette proprio di vedere queste idee come girano, come nella loro concreta circolazione, a contatto di concreti problemi, e come si trasformano, perché a contatto di concreti problemi queste idee non devono a un certo momento modificarsi. Dicevo che l'impostazione del De Ruggiero è l'impostazione chiara, e continuiamo con tutte le importanti storie del liberalismo, contiamo con i liberalismi paralleli. Importantissimo è il libro del Cranston, che ho qui se qualcuno gli interessa, con una piccola modificazione, con una piccola novità. Il liberalismo è liberalismo inglese, francese, tedesco e americano. Il grande recupero del liberalismo americano, ed è molto strano recuperare il liberalismo americano, dove in America la parola liberal, vuol dire una cosa completamente diversa da quello che vuol dire in Europa, perché in Europa il liberale può essere centrista, più o meno come in Germania, conservatore come ieri su Malagodi in Italia, centrista come in Inghilterra, ma non ha quelle connotazioni di radicale che invece ha nella cultura, cultura americana. Poi se andiamo avanti prendiamo un altro storico del liberalismo, Shapiro, autore di diversi libri sul liberalismo, il quale ci mette gli italiani e ci mette anche gli italiani, l'unico, ce ne mette uno solo italiano. Ci mette Mazzini, e mi sembra un pochino strano, dovendo trovare come simbolo del liberalismo italiano, metterci Mazzini, mentre si poteva mettere benissimo, per il nostro periodo, Minghetti, Spaventa e anche, per me, Gaetano Mosca. Quando poi invece andiamo a vedere la Germania, non mi cita Kant, non mi cita Humboldt, che tradizionalmente vengono considerati grandi pensatori liberali, e mi ci mette Hegel. Hegel può essere anche suscettibile di un'interpretazione liberale, come ha fatto recentemente Avineri. Ci mette Trösch, va bene, ma ci mette Fraschke e Bismarck, e io non riesco più a capire cosa sia il liberalismo. Se poi andiamo a un altro storico del pensiero politico, uno dei più noti, Plamenat presenta una bella antologia del liberalismo, ma ci sono soltanto gli inglesi e i francesi. E sapete che pensatori prende? Emblematici. Allora, per gli inglesi si prende Burke, che per alcuni è un reazionario, mentre è un conservatore, per i francesi si mette Rousseau. Ora, se ritorniamo a questa voce, questo qui dell'ultima enciclopedia si muove tutto in un'area di tipo anglosassone, il liberalismo è il liberalismo inglese fondo americano, in Europa, soprattutto in Germania e in Italia, abbiamo un liberalismo frammentato e settario, abbiamo dei gruppi liberali, abbiamo dei partiti liberali, abbiamo delle sette liberali, abbiamo degli intellettuali liberali, ma intellettuali che non sempre riescono a incidere sulla concreta vita e prassi politica. Abbiamo dei gruppi liberali che non danno però il tono generale, culturale, alla vita del paese. E allora noi ci troviamo, quando parliamo di liberalismo, e del liberalismo bisognerebbe darne, a mio avviso, una definizione di carattere storico. Della libertà si può dare una definizione di carattere filosofico, ma del liberalismo dovremmo dare una definizione storica, ma quando andiamo a vedere i liberali, vediamo che abbiamo liberali che privilegiano una concezione utilitaristica della vita. E, per esempio, in Inghilterra, John Stuart Mill, un liberalismo estremamente individualistico, che ha la sua matrice in fondo nell'individualismo hobbesiano. In altre parti, pensiamo a Kant, abbiamo un liberalismo essenzialmente etico, che ha la sua matrice in Rousseau. Un altro contrasto, c'è chi, che ho già accennato prima, c'è chi privilegia la società civile e pensa a una teoria che oggi è tornata di moda nel neoanarchismo, neoliberalismo americano, la teoria del minimo Stato. Altri sono rigidamente individualistici, altri ammettono invece quello che viene definito con un brutto termine il razionalismo costruttivistico, cioè che nella concezione liberale si ha mente che l'uomo attraverso la sua ragione possa costruire concretamente la società e gli ambiti della società in cui vive. Il presidente inizialmente ci ha detto che il liberalismo è una concezione ancora attuale, sia De Ruggero, sia l'erede di De Ruggero, perché Laskin nel scrivere il suo libro anche lui ha accettato l'impostazione De Ruggero, magari accentuando di più riforma, rinascimento, riforma, illuminismo, sostengono la tesi, oggi di moda con Bettino Craxi, che il liberalismo è una concezione che deve essere mantenuta, tolta e superata, secondo l'intraducibile parola tedesca di Hauptleben, nel socialismo. Ma non dobbiamo invece dimenticarci che già nel 1934 Marcuse, in un suo famoso saggio, mostrava che il liberalismo necessariamente si doveva sviluppare non nel socialismo, ma nella concezione fascista e nella concezione nazista, prendendo come punto di riferimento della sua indagine un pensatore italiano, che è Giovanni Gentile, nel quale direi che sul momento liberale prevaleva il momento nazionale, qualche parentela col liberalismo forse piccola forse ce l'aveva, perché aveva studiato i grandi autori del nostro risorgimento, ma prendendo come autore del passaggio del liberalismo tedesco al nazismo Carl Schmitt, che a quanto mi costa mai è stato liberale. Quindi io, signori, credendo di essermi mantenuto in tempo, mi scuso con queste domande un poco impertinenti, con questi dubbi, con queste riflessioni, perché a mio avviso nello stato della letteratura è ancora impossibile trovare o stipulare una concordia per vedere che cosa significa il contenuto concreto di questo nome, ma penso che la via di una ripresa di contatto storica, esaminando singoli momenti, singole fasi, di fronte a concreti problemi di coloro che si definirono nel passato liberali, accentuando il momento della circolazione delle idee su cui avremo la sua relazione, bene, io credo che questo sia forse una strada positiva, perché la strada che hanno affrontato i filosofi della politica, i politologi o gli storici stratosferici che amano spaziare da un continente all'altro e attraverso i secoli, questa strada per ora è stata fallimentare. Grazie. È una tradizione accademica tedesca, sui banchi far così. Darf ich ganz kurz, forse faccio brevissimo, die nicht italienisch verstehen, certo, ma tanti ringrazio molto perché il professor Matteucci ha parlato molto lentamente, distintamente e chiaramente, così che anche quelli che capiscono un po' difficilmente l'italiano potevano seguire. Professor Matteucci hat zuerst ja betont, dass er selbst kein Historiker, sondern sich eben mit politischer Philosophie beschäftigt und hat die Frage gestellt, was ist Liberalismus? Es gibt, dass es eben sehr viele Antworten gibt, so viel, dass etwa Friedrich von Hayek jüngst sogar vorgeschlagen hat, diesen Begriff des Liberalismus als missverständlich und vieldeutig überhaupt aus der Diskussion zu lassen. Er hat dann auf die Unterscheidung, die etwa von angelsächsischer Seite, er hat hier Neil und David Smith genannt, zwischen einem ökumenischen Liberalismus, der also ein Liberalismus, ein offener, weiter, wo eigentlich Liberalismus gleich ist mit Toleranz und Diskussion und dann eben alles, was eben nicht totalitär oder intolerant ist, unter Liberalismus begriffen werden kann, und einem sektiererischen Liberalismus, wobei sich das vor allem auf die Gruppen und politischen Parteien und Grüppchen in den europäischen Nationen bezieht. Er hat dann auf das bedeutende, ja auch in allen sehr früh in alle Sprachen übersetzte, Anfang der 20er Jahre erschienene Werk von De Ruggiero verwiesen, das, von dem er mit Recht sagte, dass es eigentlich die Parallelen, die vite Parallele des englischen, französischen, deutschen und italienischen Liberalismus ist, und hat darauf hingewiesen, dass nach allgemeiner Überzeugung, auch nach De Ruggiero, der Liberalismus als Weltanschauung entstanden ist aus der Kette Renaissance, Reformation, Aufklärung, während der Begriff liberal ja bekanntlich am Beginn des 19. Jahrhunderts in Spanien als politische Gegnerschaft gegen die Ultras oder konservative bzw. restaurative Gruppe entstanden ist und sich dann über ganz Europa verbreitet hat. Was ist nun, das Wesen des Liberalismus, der Immanentismus und Individualismus, und ist daher der Liberalismus eben durch Descartes und Hegel begründet worden, wie dann etwa in Italien vor allem durch Croce die Übernahme und Weiterentwicklung hegelischer Ideen sind. Ist er eine Weltanschauung, eine Lebensauffassung oder eine politische Lebensauffassung, über die uns ja Passerin d'Entrée am Beispiel von Cavour erzählt wird, und er hat darauf hingewiesen, dass etwa ein René Maillet formuliert hat, Cavour sei also Tocqueville in Aktion, also als handelnder Mensch sozusagen, so wie Metternich den Napoleon einen Robespierre zu Pferd genannt hat, also sozusagen der Cavour ein Tocqueville zu Pferd oder ein Tocqueville in Aktion. Die Frage dann, ob das Wesen des Liberalismus der Konstitutionalismus sei, und da hat er darauf hingewiesen, dass ja man heute weiß, dass der Konstitutionalismus eben seine Wurzeln im Mittelalter hat und daher also auch hier sehr weit zurückliegende Wurzeln sind. Und er hat auf die Diskussion zwischen Croce und Einaudi, die Unterscheidung zwischen Liberalismus und Liberismus, also Liberalismus in Bezug auf die ökonomische Freiheitslehre genannt, und als Beispiel dann besonders auch auf Italien verwiesen, auf den Unterschied zwischen Marco Minghetti, der also sehr stark von der französischen Seite, also von Tocqueville beeinflusst war und eben Gesellschaft, die Società in den Vordergrund gestellt hat, während vor allem die neapolitanischen Neuhegelianer, die Brüder Spaventa, den Staat in den Vordergrund stellen. Und sagt eben dann, dieser Liberalismus ist eben furchtbar schwer zu erfassen, non sappiamo da che parte agguantarlo, auf welchen Seiten wir ihn also sozusagen in die Hände bekommen könnten und hat dann auf neuere, besonders angelsächsische Werke von Cranston und Shapiro hingewiesen und gezeigt, dass die oft sich ganz auf den angelsächsischen, englischen, amerikanischen Liberalismus beziehen, wobei ja im amerikanischen Liberal eben etwas ganz anderes ist, als man in Europa sieht, eben Liberal eben das bezeichnet, was man als radikal, links, bürgerlich oder auch Planungs, New Deal und so weiter, dass das eben in Amerika die Liberals sind. Und dass eben auch ganz verschiedene Leute als die Väter, etwa Burke, den viele wieder als Konservativen betrachten, andererseits Rousseau, und dass etwa in einem dieser Werke, ich glaube, es ist bei Shapiro, als einziger italienischer Liberaler ausgerechnet Mazzini angeführt ist. Und er hat etwa darauf hingewiesen, dass etwa jetzt in der Diskussion, ist ja aktuell in Italien von den sozialistischen Parteiführer Bettino Craxi, überhaupt der Liberalismus als etwas ist, was aufgehoben wird im Sozialismus, aufgehoben eben in dem in der Doppelbedeutung, in der hegelianischen Doppelbedeutung. Und er hat dann darauf verwiesen, dass etwa schon Marcuse vor langer Zeit einmal den Liberalismus als den sozusagen als Vorläufer von Faschismus und Nationalsozialismus bezeichnet hat, wobei er für die italienische Entwicklung Giovanni Gentile hier angeführt hat und für die deutsche Entwicklung Karl Schmitt, bei dem man sich ja fragen muss, ob er überhaupt jemals ein Liberaler gewesen sei. Und hat eben zum Schluss gesagt, dass es hier also von den stratosphärischen Historiker, die also von einem Kontinent zum anderen Vergleiche anstellen, es vielleicht ganz wertvoll ist, wenn wir uns mit kleinen, konkreten Gebieten, wie etwa in dem Referat von Corsini, das wir die nächste erwarten, über das Trentino, wo hier eben der deutsche, italienische und österreichische Liberalismus aufeinandertreffen und sich gegenseitig beeinflussen. Das war also im Wesentlichen. Credo che non ho trascurato niente. Non ho trascurato niente. È stato bravissimo. Grazie. Machen wir jetzt eine ganz kurze Pause. Facciamo 10 Minuten. 10 Minuten und poi la relazione di. Non avrebbe senso di entrare subito nella discussione. Im ersten Referat und es spricht nun Herr Altgeld aus Köln und sein genaues Thema ist italienische Freiheit und Unabhängigkeitsbewegung vor 1848 in der Sicht deutscher Liberale. Also, il movimento liberale e nazionale italiano visto dai liberali tedeschi.